strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura ci occupiamo di Maserati perché si avvicina il debutto della versione full electric della casa italiana. La casa del Tridente infatti ha dato il via alla sperimentazione di auto con un propulsore 100% elettrico che conservino però tutto il piacere della guida assicurato dal marchio, a partire dall'attento studio del sound che cercherà di non far rimpiangere troppo il motore termico. E allora noi siamo in grado in anteprima di farvi ascoltare una parte di questo sound. Sentiamo. E questo era il suono della nuova Maserati Electric che sarà presentata quest'anno, probabilmente debutterà sui mercati nel 2021, un powertrain che sarà anticipato prima sulla Gran Turismo, poi sulla Gran Cabrio, e che dovrebbe arrivare appunto sui mercati il prossimo anno. Noleggiare le auto FCA attraverso l'Avis App è diventato possibile grazie ad un accordo firmato nelle scorse settimane tra la casa automobilistica e Avis Budget Group, azienda per la fornitura di servizi di mobilità. Una sinergia nata per garantire un'esperienza di noleggio più moderna, self-service e on demand attraverso auto connesse. Con l'app infatti si potrà scegliere il veicolo, sbloccarlo per la corsa e restituirlo poi in maniera ancora più semplice e veloce. Bene, cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'autodromo di Vallelunga a Roma, una struttura che completerà i suoi lavori di ristrutturazione proprio quest'anno, protagonista di una serie di iniziative, tra cui anche l'organizzazione della prossima Formula E a Roma in aprile. Ne parliamo con Francesco Cassioli, che è il coordinatore operativo dell'autodromo di Vallelunga. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera Massimo, grazie a voi. Allora, cominciamo proprio con questa ristrutturazione che è cominciata da qualche anno e che dovrebbe praticamente terminare in questi mesi. Di che cosa si tratta? Allora, sì, stiamo parlando di tutta una serie di lavori che sono stati effettuati in autodromo, perché da qualche anno diciamo l'autodromo era rimasto un pochino fermo in termini di ristrutturazione, di rinnovamento, perché la scelta era stata quella di diversificare l'attività, quindi andando a creare accanto all'autodromo tutta una serie di strutture per far sì che l'attività di Vallelunga potesse essere più varia, più ampia rispetto a un autodromo più votato all'attività di motorsport, per cui fu creato in primis un bellissimo centro guida sicura, un centro congressi, delle aree off-road, per far sì appunto che a Vallelunga non ci fossero solamente attività motorsport ma tutt'altro, e ovviamente la maggior parte dell'interesse era quello per i grandi eventi in ambito automotive e per la guida sicura. Dopodiché dal 2017 siamo riusciti a tornare ad investire sull'autodromo direttamente, andando ad apportare tutta una serie di modifiche volte sempre a far sì che Vallelunga fosse al passo con i tempi, al passo con i competitor presenti sul nostro mercato. È anche un po' un punto di riferimento in Italia. Hai parlato di guida sicura, hai parlato di grandi eventi, sono due temi che toccheremo nel corso di questa breve intervista. Cominciamo proprio dalla guida sicura, che è un po' come dire l'eccellenza di Vallelunga. Sì, è assolutamente vero. Vallelunga, come saprete, è di proprietà di Automobile Club d'Italia, quindi dell'ACI, e Vallelunga per conto di ACI si occupa dell'attività operativa, della divulgazione, dell'attività di formazione di guida sicura in Italia, per cui ovviamente è un tema caldissimo in questo momento, lo è sempre di più. La formazione è importantissima perché le vetture sempre di più hanno tutta una serie di sistemi che permettono al guidatore di essere aiutato, ma è ovvio che senza formazione, certo, tutti questi sistemi sono praticamente inutili. E Vallelunga, oltre al centro che si trova a Roma, Si occupa anche della gestione di un altro centro guida sicura a Milano. In questa maniera siamo in grado di raggiungere la popolazione di guidatori nazionali in maniera un po' più agevole. Ecco, a proposito di questa popolazione, al di là dei corsi che probabilmente organizzate per conto delle case costruttrici, ma un semplice automobilista che volesse, come dire, approfondire la sua conoscenza sulla guida pratica può avvicinarsi a questi corsi? Assolutamente sì, noi abbiamo un calendario di corsi che si rivolgono agli utenti privati, per cui come qualsiasi tipo di esperienza o di formazione o corso in generale, si va su un sito internet, si sceglie la tipologia di corso da voler effettuare, quale location, quindi se farlo a Roma o farlo a Milano per ora, e dopodiché ci si iscrive e si viene a fare il corso. La maggior parte dei corsi da noi erogati sono rivolti alle aziende, ovvero il personale aziendale che per una certa per alcune ragioni ovviamente guida per lavoro. L'85% dei nostri corsi si rivolgono a queste persone. Il resto sono utenti privati che acquistano il corso e vengono ad effettuarlo, o il genitore che regala il corso al figlio. E questo mi sembra un gran bel regalo. Preso la patente. Sì. Ecco, questi sono corsi solo per automobilisti o c'è anche altro? No, i corsi effettuati dalle strutture che fanno capo a noi sono rivolti a qualsiasi tipologia di mezzo su ruote, per cui su gomma, dal motorino ovviamente all'auto articolato. Auto articolato o anche fuori strada, ovviamente sono molto più di interesse di chi guida per ragioni di lavoro. Ecco, veniamo agli eventi, ce n'è uno in particolare che sta per arrivare qui a Roma, è diventato un appuntamento abbastanza importante per la città, in particolare per il quartiere Eur, la Formula E, per il terzo anno siete organizzatori di questo evento, quali sono le novità di quest'anno? Allora, noi siamo per fortuna siamo stati confermati appunto per la terza volta, quindi in tutte e tre le edizioni romane, gli organizzatori sportivi della manifestazione. Tutto il resto non ci compete, noi ci occupiamo di tutto ciò che avviene dalla direzione gara e poi all'interno delle protezioni dei guardrail. Forniamo tutto il personale, e ovviamente personale con un know-how molto sviluppato, per far sì che la manifestazione sportiva abbia successo. Noi abbiamo circa 250 persone impiegate, dalla direzione gara, quindi dal direttore di gara, a tutti i servizi presenti in pista, che come vedete in televisione sono sostanzialmente gli ufficiali di percorso, gli addetti antincendio e tutto il personale del servizio sanitario, tutto il personale che si occupa del soccorrere le vetture in caso di un incidente, eccetera eccetera. Quello, ecco, è quello che ci compete. La formula è, cioè la formula delle vetture elettriche, lo sottolineiamo per chi si fosse distratto, è ormai diventata a tutti gli effetti una Formula 1, nel senso che le difficoltà probabilmente sono le stesse di organizzazione ma anche di gestione. Potrebbero anche essere di più, perché la Formula E poi non va nei circuiti ma va su circuiti stradali che devono essere approntati con tutte le difficoltà ovviamente del caso, di un qualcosa di temporaneo che fino al giorno prima era deputato a fare altro e dal giovedì o dal venerdì si occupa invece di è un pezzo di asfalto che si occupa di ospitare le vetture di Formula E, per cui ha anche probabilmente potrebbe avere anche difficoltà superiori. Oltre alla Formula E, quali sono le altre attività che sono previste per questo 2020? È Valle Lunga, per scelta fatta una quindicina di anni fa, si è concentrata su gli eventi nazionali e non le grandi gare di mondiali come possono aver fatto su altri impianti, per cui avremo quest'anno tutte le gare nazionali di auto e moto di più alto livello, e quest'anno per la prima volta ospiteremo anche un weekend che abbiamo denominato American Festival of Rome, all'interno del quale collerà la versione europea della NASCAR. È una cosa che è una gara che ci fa molto piacere iniziare ad ospitare, e speriamo che il pubblico romano risponda in maniera veramente entusiasmante. Bene, noi seguiremo ovviamente con attenzione l'evoluzione di questi appuntamenti. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Francesco Cassioli, coordinatore operativo dell'autodromo di Vallelunga, che ci ha raccontato un po' le novità di quest'anno per quanto riguarda l'autodromo romano del centro Italia. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Ci risentiamo tra poco, parleremo di Porsche, delle novità che sono in arrivo in Italia, della piccola rivoluzione elettrica che sta caratterizzando anche la casa tedesca. Tutto questo con Pietro Innocenti, che è il direttore generale di Porsche Italia. A tra poco. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come avevo anticipato nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questo secondo spazio interamente a Porsche e ai risultati della casa tedesca in Italia, risultati nel 2019 particolarmente importanti, con un più 28% rispetto all'anno precedente, ma sono tante le novità che riguarderanno questo 2020, ancora di più il 2021, quando è prevista l'inaugurazione del Porsche Experience Center di Franciacorta, una opera sicuramente importante, un'infrastruttura che servirà a tutti i fan di questa casa per provare e testare i prodotti. Ma di tutto questo parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, facciamo un passo indietro. Un 2019 particolarmente importante per Porsche, visti anche i risultati di vendite. Sì, è stato un anno record per Porsche in Italia. Abbiamo consegnato al cliente complessivamente 6.710 vetture. È la prima volta che superiamo quota 6.000 per quanto riguarda le vendite, con una crescita, come ha detto lei, del 28% rispetto al 2018. Siamo in questo modo il terzo mercato in Europa dopo il mercato domestico, la Germania, e dopo il Regno Unito. Consolidiamo questa posizione per il terzo anno consecutivo, a testimonianza insomma di un'ottima performance negli ultimi anni. Diciamo, la performance si spiega grazie all'introduzione di diversi nuovi modelli che sono arrivati nel 2019, come ad esempio la nuova generazione della 911, ma anche l'arrivo di Cayenne Coupé, l'arrivo delle motorizzazioni ibride su Panamera e su Cayenne, e anche l'anno pieno della nuova Macan. Quali sono le aspettative per questo 2020, in particolare appunto per l'elettrico? 2020 effettivamente per noi è un anno storico, perché arriva Taycan, che è la prima Porsche completamente elettrica, sarà nelle concessionarie a partire dal prossimo 26 febbraio. Ovviamente gli ordini sono già aperti, però le prime consegne inizieranno appunto il mese prossimo. Siamo molto fiduciosi per il successo di questo modello, anche se il nostro mercato sconta un certo ritardo per quello che riguarda l'infrastruttura di ricarica. Su questo infatti noi siamo impegnati direttamente, perché stiamo creando la nostra infrastruttura di ricarica, proprio per cercare di colmare anche un gap infrastrutturale, ed è per questo che doteremo tutte le nostre concessionarie in giro per l'Italia di stazioni di ricarica ad alte prestazioni, come ad esempio quella che verrà inaugurata presto presso il nostro centro di Milano Nord, che addirittura ha una potenza di ricarica di 350 kW. Poi stiamo diffondendo anche una rete cosiddetta di destination charging, ovvero stazioni di ricarica presso hotel, spa, golf club, palestre, eccetera, quindi destinazioni normalmente frequentate dai nostri clienti, che possono in più di 130 location trovare le stazioni di ricarica Porsche, e l'obiettivo è quello di completare questa rete aggiuntiva, portando fino a 200 location la disponibilità di questi punti di ricarica. Che quindi si aggiungono alla rete tradizionale quelle infrastrutture già presenti in città sostanzialmente. Esattamente. E poi un'altra attività che stiamo svolgendo, e va sotto il nome di Porsche Charging Solution, va invece a offrire una possibilità di ricarica a casa del cliente, che i mercati più maturi nello sviluppo dell'elettrico testimoniano essere la modalità di ricarica più frequente. L'80% di ricarica infatti avviene normalmente a casa. E quindi abbiamo stretto un accordo con un partner che si chiama Alpic, che fornirà ai nostri clienti una consulenza per installare nelle loro case un contatore dedicato con una potenza di fino a 11 kW in trifase, che consentirà la possibilità di ricaricare la vettura a casa, avendo però una tariffa flat molto vantaggiosa, perché stiamo parlando di 100 euro al mese, quindi praticamente con l'equivalente di un pieno di benzina si ha la possibilità di ricaricare la propria vettura per tutto il mese, ogni qualvolta lo si desideri. E quindi abbattendo anche un costo che molto spesso viene sottovalutato, che è quello della ricarica, soprattutto per macchine ad alte prestazioni come appunto quelle di cui stiamo parlando. C'è un altro progetto che avevamo anticipato nell'introduzione, il Porsche Experience Center, che sarà inaugurato secondo le previsioni fra un anno, nel 2021, e quindi nel 2020 avrà la sua fase massima di realizzazione. Sì, esatto, siamo appena partiti, perché sono partite le prime attività di demolizione di alcuni edifici presenti proprio nell'attuale circuito di Franciacorta, che diventerà Porsche Experience Center a partire proprio dall'aprile dell'anno prossimo. Di che cosa si tratta? Si tratta di fatto di un impianto già esistente che verrà riammodernato, ristrutturato secondo quelli che sono standard di immagine della marca, per offrire a clienti, potenziali clienti ed appassionati, un'esperienza unica a contatto con quelle che sono i nostri prodotti. Non c'è solamente questo, però, perché appunto la posizione di Franciacorta è strategica non solo per la collocazione nel nord Italia, dove abbiamo la maggior parte dei nostri clienti, ma anche perché è ben collegata con aeroporti, con rete autostradale, ed è vicina anche a zone turistiche come quella del lago di Iseo, del lago di Garda, delle colline del Franciacorta. Quindi abbiamo in mente di offrire una serie di servizi in più che non si rivolgono solamente al cliente, ma si possono rivolgere anche per esempio alla famiglia. Quindi avremo all'interno del centro un bellissimo ristorante, avremo simulatori e kart elettrici per i ragazzi, figli dei nostri clienti. Ospiteremo grandi eventi motorsport, come ad esempio anche la nostra Carrera Cup, quindi il nostro monomarca, quindi saremo aperti al grande pubblico di appassionati del motorsport. E poi ci saranno anche delle strutture che potranno essere utilizzate anche da aziende che vogliono organizzare eventi nell'ambito del nostro Experience Center, quindi fornendo ai propri collaboratori un'esperienza particolare. Quindi ci rivolgeremo anche al mondo B2B e del mondo incentive. Certo, veniamo un po' ai modelli. Le prima ne ha già citati alcuni, tra cui l'attesissima Taycan, la vettura elettrica, ma ce ne sono due modelli sportivi, la 718 Cayman e la Boxster GTS 4.0, che debutteranno a marzo in Germania. Quando arriveranno in Italia e quali sono le loro caratteristiche? Sì, diciamo che a livello europeo il lancio sarà in sync con quelli che sono gli altri principali mercati, quindi sarà disponibile già a partire da marzo anche in Italia. E sono varianti delle attuali 718 già disponibili, sia nella versione coupé, quindi Cayman, che nella versione Spider, quindi Boxster, e hanno come novità il ritorno del motore 6 cilindri Boxster, sì, che era precedentemente presente nelle vetture delle precedenti generazioni e che è stato poi sostituito con i 4 cilindri turbo delle attuali. Quindi si ritorna al 6 cilindri, e questa è una novità che sicuramente gli appassionati gradiranno, certo, molto, e sarà anche disponibile in queste due versioni che si chiamano appunto Boxster e Cayman GTS anche la possibilità di avere il cambio manuale. Ecco, si è parlato molto di questo ritorno al 6 cilindri dopo l'esperienza del 4. Perché questa scelta? Perché è una icona del nostro brand, perché sicuramente è il motore che da sempre ha equipaggiato questo tipo di modello, e che poi per riuscire a stare all'interno di quelle che sono le soglie omologative era stato sostituito dal 4 cilindri. Questa è una chicca, diciamo, più su scala limitata, quindi su una sola variante, non su tutta la gamma 718 che continua ad avere 4 cilindri turbo, e si caratterizza, diciamo, per un'estrema sportività, tant'è vero appunto che è disponibile solo con il cambio manuale, quindi infatti è, diciamo, una versione più sportiva, più corsaiola di quelle che sono attualmente già presenti sul mercato. E poi, visto che stiamo in radio, ha un sound che è completamente diverso, lo ricordiamo. Siamo quasi in chiusura. Un'ultima battuta sulle altre iniziative previste per quest'anno in Italia, tante appunto le iniziative che avete immaginato per il target italiano. Assolutamente sì, sono specifiche proprio del nostro mercato, in alcuni casi saranno diffuse anche su altri mercati con il passare del tempo, però sicuramente per quanto riguarda l'Italia confermeremo delle iniziative di grande successo che abbiamo lanciato nel 2019, come ad esempio la Porsche On Board, che è questo campionato dedicato agli sport acquatici su tavola, quindi kitesurf, kitefoiling. Così come andremo a confermare anche le attività relative alla Macan Music Platform, che è questa serie di concerti dove di fatto agiamo come mecenati di artisti emergenti, ed entrambe le attività sono attività che abbiamo studiato proprio per approcciare un pubblico di giovani che magari ci vedono un attimino come distanti, mentre vogliamo essere sicuramente un brand approcciabile, ed è per questo che sia la musica che gli sport che ho appena menzionato sono delle iniziative sulle quali vogliamo consolidare la nostra presenza. Poi chiaramente saranno confermate tutta una serie di altre attività come quelle del motorsport, con la Carrera Cup, che confermerà anche quest'anno la partnership con Sky e il talent per scegliere il pilota della prossima edizione. E poi una cosa anche molto innovativa che andremo a sviluppare quest'anno sarà l'apertura di un nuovo concept store che sarà presente a Milano nel complesso di City Life, e sarà una nuova formula di interazione con il pubblico che assomiglierà, diciamo così, più a un Apple Store che non ad una concessionaria tradizionale. Bene, noi seguiremo sicuramente con attenzione l'evoluzione di tutti questi eventi. Termina qui questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.